il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Al quadrifoglio questa settimana parliamo di patata americana, un prodotto che tutti nel Veneto conoscono e che proprio in autunno viene consumato maggiormente, però non tutti sanno la storia di questo prodotto e anche da dove arriva. Ci sono alcune zone, in particolar modo nella bassa provincia padovana, dove questo prodotto si è particolarmente diffuso. Ne parliamo oggi con il dottor Paolo Duso e Masin, che è storicamente una delle persone che ha lanciato la produzione di questo ortaggio appunto nel Veneto. Benvenuto dottor Duso e Masin. Grazie, buongiorno. Ecco, ci può dire che cos'è esattamente la patata americana o batata, come viene detta in termine scientifico, e da dove arriva, quindi brevemente la storia di questo prodotto? Sì, la patata americana, patata dolce, è originaria dell'America tropicale, arriva con Cristoforo Colombo, quindi alla fine del 1400, e soprattutto nel Veneto ha un suo punto di riscontro nella bassa padovana, nella zona di Strappare, di Pozzonovo, di Anguillara, di Boaratisani. Viene chiamata patata perché aveva la forma e ha la forma della patata, in effetti non è un tubero ma è una convolvulacea, quindi il frutto, chiamiamolo così, che si mangia è la radice che si è ingrossata. Quindi non è una sorella della patata classica, no. È una tutt'altra cosa. Tutt'altro prodotto. Assolutamente sì, ha delle caratteristiche organolettiche che la rendono anche più interessante della patata normale, sia come valore nutritivo che come caratteristiche organolettiche, è ricchissima di vitamina A, B, C, potassio e ha una sua caratteristica particolare che, essendo ricca di vitamina B9, acido folico, e vitamina E, può essere molto interessante anche per prodotti di bellezza. Come mai proprio nella zona, mi diceva lei, di Anguillara, di Stroppare, di Pozzonovo, ha trovato terreno fertile? Storicamente io le posso solo dire che ho trovato nei vecchi registri delle nostre aziende del 1800 che già all'epoca si coltivava questa batata. Il perché credo che dipenda dalla tipologia di terreno, che è un terreno argilloso, alluvionale, un terreno rosso, che dà la possibilità alla patata di non avere quei filamenti noiosi che si riscontrano nelle patate di Latina. Le patate di Latina nascono perché i veneti vanno a Latina e iniziano la coltivazione delle patate americane, ma trovano un terreno sabbioso che non fa della patata una patata ad hoc, ma una patata di seconda qualità. Invece in questo triangolo che è di Boara, Strappare, di Pozzonovo e Anguillara, la terra rende questa patata particolarmente dolce, rotonda e di colore beige bianco, che è una sua caratteristica. È soprattutto nel Veneto che si concentra sia la produzione ma anche il consumo, oppure è un prodotto comunque che si conosce anche in altre zone d'Italia? Allora, nelle zone d'Italia la più vocata è sicuramente il Veneto. Come vi ho detto, esiste anche una produzione abbastanza estesa nella zona del Lazio, verso Latina, ma non è una patata meno di qualità. Mentre nel Veneto il centro DOC, come potrebbe essere il tartufo di Alba, la patata di Strappare e Anguillara, è il suo centro nazionale. C'è qualche cosa anche nel Trevigiano. A livello di consumo, come si consuma? Cioè, noi forse siamo abituati a consumarla nello stesso modo, ma sappiamo che oggi la gastronomia cerca anche così di utilizzare gli ingredienti in modi molto diversi. Forse certo. Il suo utilizzo magari si potrebbe essere diverso da quello classico che conosciamo. Normalmente chi mangia patate americane e la conosce la mangia o arroste o bollita, e sono i due modi più semplici per farla. A fine pasto, ma spesso fuori anche tipo merenda. Esatto, esatto. Io ne consiglio per chi si avvicina la patata bollita, ancora calda, con un po' di burro sopra e un po' di zucchero e cacao, ed è un dolce favoloso. Per quanto riguarda i consumi normali, che noi stiamo cercando di spingere, avendo fatto anche un ricettario, se ne sono svariati. Si va dalle patate fritte fatte a baguette come quelle normali salate, come il Monte Bianco, che ha lo stesso gusto di quello fatto con le castagne, dalle crostate al cioccolato, alle palline al brandy. Diciamo che c'è una varietà infinita di possibilità di mangiare la patata americana. E abbiamo scoperto, questo da pochi anni, che nelle Filippine, la patata americana viene mangiata moltissimo nelle Filippine, utilizzano anche le foglie. Le foglie, in effetti, bollite, diventano come degli spinaci, più nutrienti e leggermente più dolci. Quindi della patata americana si può mangiare tutto. Ci dobbiamo fermare per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Vite di quartieri venuti male, la tangenziale, la ferrovia, le notti insonni girando in auto per la sacra periferia. Torniamo in linea con la rubrica Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di patata americana, lo stiamo facendo con il dottor Paolo Duse Masin, storico produttore proprio di questo prodotto. Abbiamo visto come si consuma la patata americana, volevamo capire un po' anche cosa si sta facendo per la promozione. Cioè, sappiamo che non esiste una patata DOC o IGP, dopo IGP, però come state cercando di promuovere questo prodotto? Sì, purtroppo non si è riusciti a coagulare una forza economica e politica per spingere questa produzione, che possiamo chiamare ormai una produzione autoctona, perché le piantine, la patata è una talea che viene ripiantata, vengono prodotte dallo stesso produttore, quindi noi non dipendiamo da nessun sementiere estero o non estero, ma ogni azienda produce le sue patate. Quindi è interessante dal punto di vista economico, perché ognuno diventa il proprio produttore. Non esiste una pubblicità se non quella che si fa con la forza privata, cioè le nostre aziende si sono presentate sul mercato, hanno creato un marchio, sono state alla RAI a presentarlo, ci siamo resi conto che è un prodotto quasi sconosciuto. Ed è un peccato, perché oltre alla possibilità di mangiare, quindi come commestibile, la patata è ricca di flavonoidi, beta-carotene, vitamina A, ha una possibilità di essere utilizzata sia nel campo farmaceutico che nel campo della cosmesi, tanto è vero che esistono società americane che creano dei prodotti di bellezza, del creme di bellezza con la patata americana. Purtroppo fino ad oggi non siamo riusciti a rendere funzionale una nostra richiesta nei confronti dell'Università di Padova e della Camera di Commercio, tanto da spingerli a darci una mano, perché purtroppo l'inizio di queste cose è molto costoso. Noi stiamo progredendo con uno studio che abbiamo fatto fare dal CNR in collaborazione col CNR, che sembra potrebbe dare dei risultati, sì. Tornando invece alla gastronomia, chi volesse consumarla in queste forme un po' diverse, voi organizzate delle fiere, mi pare, appunto in quel anguillare a stroppare, e poi il ricettario che citava prima, dove si può eventualmente trovare? Il ricettario bisognerebbe andare nel nostro sito www.deliziesvalcorba.it e lì si trovano circa 60-70 ricette diverse e la possibilità anche di comprare online le patate. Esistono due fiere importanti della patata americana: in settembre quella di Anguillara e nella seconda domenica di ottobre, appena passata, quindi la domenica scorsa, quella di Stroppare. Sono fiere interessanti perché intanto c'è il primo approccio con questa produzione che è abbastanza sconosciuta. Dall'anno prossimo speriamo, tramite il comune di Pozzonovo e tramite alcuni politici che abbiamo sensibilizzato, di riuscire a fare una specie di master chef culinario con la produzione e con la cottura in vari aspetti della patata americana da poter offrire alle persone che verranno. Quindi se qualcuno vuole segnarselo, seconda settimana di ottobre, la fiera della patata americana di Stroppare di Pozzonovo. Benissimo, la ringrazio, dobbiamo fermarci qui e assolutamente daremo notizie di queste novità che ci saranno l'anno prossimo, e intanto invitiamo i nostri ascoltatori a consumare, a scoprire, a cercare di scoprire questo prodotto. Grazie. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori, buona giornata. Chiudiamo la trasmissione con un paio di notizie. I prezzi di quasi tutti i prodotti agricoli sono ai minimi storici, con la consumo e la domanda interna fermi. Le importazioni dall'estero sono senza controlli e questi temi angosciano le imprese agricole. Lo afferma il presidente di Confagricoltura Padova, Giordano Emo Capodilista, che dice che un'altra annata amara che si aggiunge alle due precedenti segnate da eventi climatici negativi. C'è sofferenza nelle campagne, soprattutto perché non si travedono prospettive di miglioramento dei mercati e condizioni di ripresa dei consumi interni. Cereali, soia, frutta, bovini e suini da macello registrano prezzi alla produzione mai visti prima, nettamente al di sotto anche dei costi. Ma anche le quotazioni dell'uva e del vino sono stagnanti e preoccupazione c'è per il latte, per il quale si sta assistendo nelle ultime settimane ad un crollo del prezzo del prodotto importato. Nella sostanza, gli agricoltori chiedono una burocrazia meno opprimente che permetta loro di concorrere con gli altri paesi e soprattutto una corretta valorizzazione commerciale delle loro produzioni che, sottolinea Emo Capodilista, costituiscono la base insostituibile del successo dell'agroalimentare italiano nel mondo. cambiamo argomento, la prima birra a chilometri zero del Veneto, dove è nata la prima legge regionale che disciplina l'orientamento al consumo di prodotti locali, è la birra del birrificio Antoniano di Villafranca Padovana, che è stata dichiarata tale lunedì 13 ottobre dal gruppo di specialisti del chilometro zero, formato dal presidente di Coldiretti Veneto e da rappresentanti di Federconsumatori, dell'ente certificatore CSQA, dell'Accademia della Cucina e della Regione Veneto. La documentazione consegnata dai titolari Fratelli Vecchiato attesta che l'orzo è padovano, il luppolo arriva dalla provincia di Venezia e tutto il processo di trasformazione avviene integralmente in Veneto e quindi si può parlare di birra a chilometro zero del Veneto. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.